Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Ed eccoci qua, ho voluto inserirla nel Last Minute, ore 8 in punto, e cominciamo con la rubrica Si può dire in mostra. È un Last Minute a regola d'arte, dove protagoniste straordinarie, come riporta il titolo di questa esposizione itinerante che arriva a Milano. Perché Last Minute? Perché è stata inaugurata esattamente nella giornata di ieri e sarà presente fino al 17 marzo. La curatrice è Renata Ferri, a breve ai nostri i microfoni, la curatela anche di Terre des Hommes per quanto riguarda l'organizzazione. Hanno voluto celebrare queste donne che con la loro competenza, la loro creatività e il loro genio sono protagoniste del presente, offrire la loro testimonianza alle giovani donne del contemporaneo, alle bambine, alle ragazze, protagoniste di un futuro, per renderle consapevoli per i diritti, ispirarle a coltivare le proprie passioni, talenti e soprattutto realizzare i sogni. Questo è fondamentale, è un palinsesto veramente molto vasto anche per quanto riguarda un panorama di incontri. Sono protagoniste straordinarie, esattamente tra queste vorrei citare Rita Levi Montalcini per quanto riguarda la scienza, ma tante sono anche per varie competenze nel mondo dell'imprenditoria, nel mondo dell'arte. Sono esattamente 110 scatti e anche testimonianze dal punto di vista delle voci. È una mostra che dà un'attenzione certo immediata e importantissima, ma è una mostra anche dal punto di vista del contenuto, con cornice fondamentale per conoscere in maniera più ampia un mondo che è veramente incisivo e adatto a tutte, a tutti, oltre che la possibilità concreta di passione, di sogno e di realizzazione in vite, non solo di successo, ma importante per la comunicazione di questi contenuti. Ne parliamo con Renata Ferri, che è la curatrice dell'esposizione itinerante straordinarie, e quindi dopo ci collegheremo poi anche con donne del passato straordinarie nel Settecento a Bologna. Intanto sentiamo dalla fabbrica del vapore a Milano, entrando in mostra la fabbrica del vapore. Straordinarie nasce nell'ambito della campagna in difesa di Terre des Hommes. Terre des Hommes è un ONG, è nata in Svizzera 60 anni fa, che ha sede in tutto il mondo e si occupa della tutela delle bambine e delle ragazze, rivolta principalmente al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, tutta l'azione che svolge questa ONLUS. Nell'ambito della campagna in difesa, 3 anni fa mi hanno chiesto di pensare a un progetto che parlasse alle ragazze, alle bambine di qui, del nostro primo mondo, in Italia, non un progetto in ambito, dice, di sviluppo alimentare, di alfabetizzazione, ma proprio qui. E che lavorasse un progetto che tendesse a svelare, a combattere gli stereotipi di genere. In quel momento eravamo in pieno lockdown, ho cominciato a riflettere che forse la strada per abbattere gli stereotipi di genere, che diciamolo anche per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, sono tutti quei limiti che la cultura dominante in questo mondo e in altri mondi impone per limitare la vita delle donne, per emarginarle dall'azione sociale, dalla partecipazione attiva alla vita sociale, al lavoro, all'istruzione. Quindi se è vero che in paesi come l'Iran e l'Afghanistan la limitazione è estrema, è altresì vero che qui nel primo mondo, nel mondo occidentale, ci sono stereotipi spesso invisibili ma molto molto potenti. Quindi la prima idea che mi è venuta era che bisognava rompere questo paradigma, spezzare l'idea della donna vittima, della narrazione anche dell'iconografia delle donne rappresentate come vittime, come succubi, che lo vediamo anche da tanta stampa, insomma anche la tragedia dei femminicidi riporta sempre la vittima o il corpo della vittima. Quindi ho ragionato sulla rappresentazione di corpi forti, di corpi che stanno nel mondo, di donne che con la loro presenza nel mondo cambiano, migliorano la nostra società. Volevo assolutamente rappresentare delle donne che fossero dei modelli ispirazionali e di fronte alle quali ogni ragazza potesse immaginare anch'io posso farcela. Ho scelto Ilaria Magliocchetti Longhi, che è una fotografa con cui collaboravo già per altre cose, una ritrattista, e insieme abbiamo dato vita a questi 110 ritratti lungo 2 anni di riprese, e tutte queste donne, mentre le fotografavamo, ho capito che era importante anche raccontarle, registrarle, ascoltare la loro voce. E quindi ho cominciato a fare delle interviste che ho raccolto in un audio che accompagna la visione della mostra e poi nel libro che accompagna l'esposizione di Milano, che si chiama Straordinario, un volume che raccoglie tutti i ritratti, queste brevi interviste e dei testi che raccontano il progetto. Questo un po' è il centro. The weevils all took the cotton and the cows all took the dry, but the varmints left behind and the sun took up to die. Trouble took to daddy like dewdrops take the night. Mama took to crying a lot and daddy took to wine. And I took a train out of there, took a train out of there. I told the engineer I don't believe his nose. Heaven help the tie that binds a family. Heaven help the tie that binds a family. Heaven help the tie that binds a family. Flowers took to daddy, and daddy he took to gum. Sister took to black real nice, and mama cried along. Brother he took up preaching, and the bank man took to farm. My mom away, she can't do herself no harm. And I took a train out of there, I told the engineer I don't believe there's no help. Heaven help the tie that binds the family. Esposizione a Nina Simone con The Family, direi attinente a Straordinarie, sperando che non ci sia più bisogno di questa specificità, no? Artiste, artisti, fotografe, fotografi, ma che ci sia una continuità assieme contro ogni disparità di genere sul lavoro, per una continuità progressista di insieme e assieme. Siamo ancora da venire, siamo ancora impegnati e ne abbiamo di lavoro e di strada da percorrere, come ho detto. E intanto, grazie alle Straordinarie, non solo un esempio, ma anche un motivo di forza, grazie alla Fabbrica del Lavoro, la curatela di Renata Ferri, Ternes Homes per l'organizzazione, sarà alla Fabbrica del Vapore. Come ho già detto, le immagini fotografiche di Ilaria Ilaria Magliocchetti Lombi fino al 17 marzo. Ne daremo approfondimento. Intanto ringrazio, mi pare, Enzo, che ci dà informazione anche con immagini per quello che sta accadendo, le scuole Besta che stiamo seguendo con la nostra redazione giornalistica per quanto riguarda la città di Bologna. Oggi ore 13 sul ricorso del comitato vi è la prima udienza. Aggiunge, comunque, gli alberi andranno abbattuti. Come ho detto, seguiremo passo passo tutto ciò, come vi ho detto, con la redazione giornalistica di Radio Città Fujiko. Questo per quanto riguarda la nostra città. Aspetti controversi che vanno su una cementificazione, un abuso del territorio, un abbattimento di già quello che è esistente, piuttosto che metterlo in sicurezza ampliando quello che è un consumo e una cementificazione tremenda anche nella nostra città, è un problema quanto mai da tenere sotto osservazione. Grazie Enzo per le immagini e gli aggiornamenti. Alle 8:11 minuti ci avviciniamo ufficialmente a questa atipica rubrica in mostra. Abbiamo parlato di diritti civili, abbiamo parlato di aspetti, siamo nel 2024, vi parlo di una Bologna del Settecento che insomma ha qualcosa per quanto riguarda tutto ciò. Pensate che potrebbe anche dare un esempio rispetto a quello che sta succedendo adesso. Non sempre il progresso è motivo di andare avanti nel tempo e negli anni, non è esattamente sinonimo poi di procedere in percorsi di, come ho già detto, andare avanti. Molte volte ci si ferma, molte volte, nonostante tutto il progresso e la tecnologia più impegnata, quella che è una produttività, una fretta piuttosto che quello di una qualità di vita, ci porta a dare un'attenzione particolare al passato e per l'arte, ovviamente, nella rubrica in mostra che a breve sarà protagonista con il Museo Davia Bargellini per quella che è una rassegna ospiti. Beh, tutto ciò a breve con in mostra, la rubrica Regola d'Arte dei 103.1. I'm your mechanical man. Come on, pull the string, baby, won't you?